Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. E grazie, grazie di esserci. Complimenti alle due fate turchine. Buongiorno, vi volevo fare i complimenti perché siete le donne più simpatiche. Ascoltarvi anche quando si lavora è veramente piacevole. Cristina, e che carina che suggerite veramente la giornata. Guardi. Buongiorno. Intanto complimenti per la trasmissione, vi adoro, siete bravissime. Sono una vostra fan accanita, lo saprete. Brava. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Io lo so cosa significa avere i pannolini, il biberon, le difficoltà dell'asilo quando vai alla scuola materna all'inizio. Allora, per i primi 3 anni, 80 euro per tutte le mamme e i papà, ovviamente uno dei due, avranno un contributo. Naturalmente non è certo questo che risolve il problema, però è un segnale. Siccome mi hanno detto, tu pensi a dare gli 80 euro soltanto per prendere i voti? Diamoli a chi non vota per 18 anni, diamoli ai bambini e diamo il segnale che l'Italia riparte da questo, dal segnale di speranza che viene da una famiglia che finalmente mette al mondo un bimbo. Allora, di questo tema ce ne stiamo occupando in molte trasmissioni, ma noi vogliamo sentire che cosa ne pensate voi di questo segnale di cui parla Renzi. Sarebbe davvero un'iniziativa utile questo nuovo bonus bebè che sta facendo parlare tanto in questi giorni? Iniziate subito a dirci la vostra all'800 24 00 24. Il premier citava pannolini, biberon. Nicoletta, lo sai a quanto ammonta l'impegno economico per un bambino nel primo anno di vita? Sì, ho letto qualche dato sul giornale, ma mi sono stupita. Ecco. Si va dai 6.350 euro ai 13.800, i dati sono dell'Osservatorio Nazionale della Federconsumatori. È un momento di grande felicità quando arriva il bebè, che però sappiamo bene obbliga anche tante famiglie a riorganizzarsi completamente dal punto di vista finanziario. Eh sì, e sotto i riflettori più spesso finiscono le neomamme che combattono con il problema lavoro, sì. No? Torno, non torno, mi prendo l'aspettativa volontaria, che faccio? I soldi servono, non bastano mai, e come faccio allora non tornare a lavorare? Il pupa, insomma, è un dilemma molto grande che hanno provato e che stanno vivendo tutte le donne che devono dividersi tra casa e lavoro, e quindi tra un po' il disagio di lasciare il bambino a casa e di tornare ai ritmi, ma si deve fare e si pagano dei prezzi molto alti. E questo è il motivo per cui hanno già destato una certa, chiamiamola così, un po' trepidazione, gli ulteriori 80 euro promessi proprio negli ultimi giorni da Renzi, che dovrebbero essere destinati a partire dal 1 gennaio a tutte le mamme e tutti i papà per i primi 3 anni di vita dei bambini. In questo caso un'iniziativa non tanto per muovere i consumi, anche se questo succederà indirettamente, quanto appunto per comprare quello che è essenziale: pannolini, biberon, latte e non solo. Intanto che aspettiamo che dall'annuncio si passi alla sostanza, stamattina abbiamo pensato di fare anche un riepilogo delle misure per le neofamiglie che già esistono, a partire dall'ultimo bonus bebè varato dalla legge Fornero. 800 24 00 24, più che di bonus lì si parlava di voucher, ve lo ricordate? Ne avete fruito? Era un bonus suddiviso in due, vi si poteva pagare la babysitter o la rata del nido. Che opzione avete adottato? Scrivetecelo anche al 349 238 6666 o su Facebook o su Twitter. Allora, Renzi promette gli 80 euro alle neomamme, noi oggi vogliamo parlare alle mamme, in verità anche ai papà, ai nonni, agli zii, abitanti, attori e comparse del pianeta bambino, per invitarli a raccontare gioie, timore, fatiche, soddisfazioni, delusioni e inciampi dei primi anni di vita insieme, perché l'arrivo del pupo in famiglia è un po' come un uragano, sconvolge completamente le vite dei neogenitori, ci sono tempi da rispettare, priorità da riorganizzare, confini da delineare, affiorano naturalmente i pensieri, le insicurezze vacillano, ci si scopre un po' diversi e spesso bombardati da tante offerte e altrettante teorie ci si sente anche, perché no, disorientate, a volte inadeguati. come se una magia ci avesse portato via il buon senso, il famoso senso, sesto senso materno, forse. Allora oggi ne parliamo con Manuela Trinci, che voi bene conoscete, psicologa e psicoterapeuta infantile, Paolo Sarti, pediatra di famiglia. Con loro affronteremo i temi caldi dei primi 3 anni di vita del bambino, su cui si confrontano i genitori da sempre, ma in modo particolare quelli di oggi, dalla difficoltà a interpretare il pianto del bebè, i dubbi sullo svezzamento, dal ciuccio al lettone al vasino, senza naturalmente tralasciare il tempo dei primi passi e delle prime parole. Allora, avete pupi? Chiamateci. Rimpiangete quegli anni ora che i figli si sono fatti grandi? Può capitare. Accomodatevi, siete in buona compagnia. Un numero verde 800 24 00 24 che è un sempre verde per i genitori di tutte le età. È per te ogni cosa che c'è, nina na, nina e. È per te ogni cosa che c'è, nina na, nina e. A giudicare dai messaggi che già si stanno concentrando al nostro numero 349-238-6666, abbiamo capito che il tema è assolutamente caldo. Allora, quanto si fa per loro? Quanti sacrifici? Anche lo sapranno bene i neogenitori all'ascolto, a cui chiediamo: se aveste in mano oggi questi 80 euro, cosa andreste a comprare? Pannolini, tutine, pappe? Scrivetecelo anche con un SMS o su Facebook o su Twitter. Io intanto do il buongiorno ai nostri due ospiti per questa parte di Cuore Denari. Ringrazio il dottor Luca Sabatini, direttore centrale della direzione prestazioni a sostegno del reddito di IMSS. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno dottoressa. E il nostro Alessandro Rotaporta, consulente del lavoro, esperto su questi temi per il Sole 24 Ore. Ben ritrovato. Buongiorno, grazie dell'invito. Buongiorno. Sono un po' indecisa se leggere anche qualche messaggio, naturalmente in molti contestano ancora una volta la cifra, che peraltro da quello che sappiamo potrebbe essere erogata, lo sapremo naturalmente solo a misura definitiva, tutta in un'unica soluzione, 900 uh-huh. euro pronti via. Quindi da quando partirà la possibilità di fare e di inoltrare la domanda all'INPS, i soldi arriveranno tutti insieme. Ed effettivamente sì, che arrivi insieme questa cifra o dilazionata, un po' la differenza secondo me la fa. Si sente, che ne pensi. Certo, ecco. Assolutamente. Dottor Sabatini, vengo subito a lei. Questa misura annunciata dal Premier passa senz'altro da voi dell'INPS, che sarete incaricati poi dell'erogazione materiale di questo assegno, chiamiamolo così, no? Stamattina si hanno un po' più dettagli, lo dicevamo, l'assegno potrebbe essere erogato in un'unica soluzione in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande. Qua già ci siamo spaventati. Già qua tremo. Qua tremo perché se arriva un altro click day, eccoli là che si bloccano tutte le piattaforme informatiche. Adesso, a parte un po' le nostre battute, dottor Sabatini, non avendo molti dettagli, voi avete già comunque cominciato a prepararvi? Guardi dottoressa, noi come istituto abbiamo gestito molte operazioni riferite a queste misure, da ultimo anche sui voucher e babysitter, quindi nel caso in cui le misure legislative dovessero assegnarci un ruolo su cui bisogna definire aspetti sia normativi e tecnici che ancora non siamo in grado di avere nel dettaglio, sicuramente l'INPS farà la sua parte, cercherà di farlo al meglio. Infatti, soprattutto, appunto, lo dicevo, siamo un po' preoccupati per il principio del click day, perché se le mamme devono già cominciare a pensare di mettersi in lì alle 5 del mattino per compilare ed inviare per prima la domanda, vediamo un po' se poi questa può essere l'opzione più corretta. Detto questo, lei dottor Sabatini lo ricordava, siamo reduci da un'altra operazione, quella varata dalla legge Fornero, che stanziava 20 milioni di euro sempre per le neomamme, per i nuclei familiari, e c'erano state anche delle polemiche. Si diceva basteranno solo per 11.000 mamme, si era calcolato, alle quali si chiedeva per ottenere questo bonus anche di rinunciare al congedo di maternità. Quante ne sono state soddisfatte? Perché poi ricordiamo che erano due i bonus contemplati da questa misura. Sì, esattamente, la misura prevedeva e prevede nel triennio 2013-2015 queste due opzioni, cioè la mamma può o chiedere voucher per una babysitter oppure per dei contributi che agevolano il pagamento della retta negli istituti, negli asili nido. La misura nel 2013 è partita, si attendeva un flusso più massiccio, in realtà abbiamo gestito 5.000 domande, quindi in realtà diciamo l'aspetto del click day poi in realtà è stato in qualche maniera normalizzato da un minor impatto. C'è da dire che la misura era assolutamente nuova e inedita anche nella fruizione, perché obbligava in qualche maniera le mamme a una opzione, a una rinuncia dei periodi di congedo parentale facoltativo. Infatti, quindi è una misura abbastanza invasiva, più che altro per le abitudini, per le prassi che si sono andate a consolidare nel tempo. Certamente era una misura con un connotato economico, ma l'obiettivo principale era per le lavoratrici, per le madri lavoratrici, un reingresso al mondo del lavoro, un reingresso in qualche maniera anticipato, cercando appunto di aiutare con una misura economica queste assistenze ai bambini che altrimenti faceva la mamma personalmente col congedo parentale. Quindi probabilmente diciamo il mix di sperimentazione, novità della misura e anche soprattutto questo impatto rispetto a un importo che ricordo nel 2013 era di 300 euro al mensile per un massimo di 6 mesi, rispetto a quello che si andava a rinunciare, forse ha in qualche maniera scoraggiato un po' le mamme a farne richiesta, disincentivato. Infatti ce lo racconta, Nicoletta me lo segnalava proprio fra i messaggi, un'ascoltatrice, Luisa dalla provincia di Padova, che dice: ho un bimbo di 8 mesi, non ho usato il voucher perché alternativo al congedo parentale o all'allattamento preferisco accudire il bimbo io, chissà se avrò il bonus anche se è nato nel 2014 mio figlio, probabilmente non avrà quello nuovo perché è destinato ai nuovi nati. Detto questo, della vecchia misura bisogna capire che cosa è rimasto in piedi. Dottor Sabatini, allora, se voglio la babysitter credo che non posso più fare richiesta del bonus per pagarla. C'è però ancora la possibilità per i nidi di accreditarsi alle vostre piattaforme per eventualmente accogliere dei bambini che possono essere pagati con questa misura. Dico male? No, dici bene. Siamo in attesa per il 2014, chiaramente i ministeri hanno chiesto un monitoraggio per questa misura sperimentale di come appunto era stato usufruito nella gestione complessiva delle domande della spesa e sono stati poi avviati immediatamente dei tavoli tecnici di approfondimento che dovrebbero portare a brevissimo alla definizione di nuove regole di ingaggio per il 2014 e 2015. Questo probabilmente porterà diciamo novità importanti, lo andremo poi a leggere nel momento in cui gli atti saranno formalizzati. Mi piace il termine che ha usato dottor Sabatini, le nuove regole di ingaggio. Qua veramente siamo proprio in guerra in certi momenti, perché le poche risorse che lo Stato ha a disposizione ce le dobbiamo, come dire, guadagnare in ogni modo. Prego, la lascio concludere. No, appunto per concludere il ragionamento. Giustamente accennava lei, però gli istituti, quindi tutti i servizi per l'infanzia accreditati nella rete pubblica, i servizi privati accreditati, possono continuare ad accedere a questo elenco che era stato costituito per espresso indirizzo del ministro Fornero all'epoca della misura ed è un elenco nazionale che è volontario, quindi nasce da un'iniziativa di accreditamento dei singoli istituti e ricordo solo per così completezza e informazione col PIN dispositivo l'accesso è a www.inps.it, nella home page ai servizi online, nella tipologia utente e aziende, consulenti e professionisti c'è un link per l'iscrizione proprio denominato elenco strutture eruganti servizi. E se io voglio sapere se ce n'è uno vicino casa mia che può essere quello adatto alla mia famiglia, devo inserire, se non mi ricordo male, dottor Sabatini, il codice di avviamento postale? Questo nel momento della domanda, quando si riavvierà l'operazione per il 2014, 2014 le mamme avranno a disposizione o attraverso i patronati oppure con servizio online di domanda all'istituto la possibilità di avere, di scorgere con un menu a tendina tutti gli istituti che si sono accreditati nella zona in cui la mamma ha interesse o ha già iscritto il proprio bambino. Quindi diciamo appariranno, è un aggiornamento diciamo immediato che viene fatto, quindi qualsiasi domanda beneficia di questo tipo di aggiornamento, e quindi se non lo trova lì è semplicemente perché l'istituto non, non si è accreditato, appunto. Un'ultima domanda, dottor Sabatini, poi la lasciamo, e tutte le domande degli ascoltatori le faremo ad Alessandro Rattaporta, al quale appunto sul quale ci concentreremo proprio per i quesiti degli ascoltatori. Nuovo bonus a partire da gennaio, è questo che ancora esiste, soprattutto per chi vuol mandare il bambino al nido. Secondo lei la nuova misura cancellerà questa che già esiste? Le due misure potranno coesistere, visto che siamo appunto sempre in una situazione di scarsità di risorse pubbliche? Secondo lei tecnicamente possono coesistere? Ripeto, non abbiamo diciamo testi formalizzati, quindi è difficile esprimere. Certamente, per come è stata presentata dal Premier, dal Presidente del Consiglio, la misura è diciamo reddituale, quindi rafforza il reddito delle famiglie con bambini appena nati oppure nei primi 3 anni di vita, e quindi porta diciamo un beneficio economico che non è vincolato a una destinazione precisa. Questa misura invece, che appunto abbiamo sperimentato nel 2013, invece aveva un ambito delle madri lavoratrici, e appunto in quel gioco che abbiamo rappresentato di compensazione con i congedi parentali facoltativi era finalizzato appunto al ringresso della mamma al lavoro, quindi diciamo in questo non vedo una sovrapposizione sotto un profilo della destinazione, però bisogna attendere legge di stabilità, bisogna attendere i provvedimenti formali per avere un'idea più precisa. Dottor Sabatini, ho la sensazione che ci risentiremo tra gennaio e febbraio con lei. Intanto in bocca al lupo e buon lavoro. Buona giornata. Grazie, grazie per l'opportunità, buongiorno. Grazie. Che facciamo? Sentiamo qualche amico da casa? Io andrei da Emanuele, che ci chiama da Modena, e poi Antonello da Catanzaro, e poi facciamo un commento con il nostro esperto, se non è scappato all'idea di dover Alessandro rispondere. È un fedelone. Credo, non ci abbandona. Allora, Emanuele, buongiorno. Buongiorno a voi, benvenuto. Grazie per la possibilità. Eccoci. Complimenti qua per la trasmissione. Grazie, lei è gentile. Ci dica. Io penso che gli 80 euro non servono a niente, per il semplice fatto che bisognerebbe concentrarsi di più sull'aiuto giornaliero che hanno le famiglie, che hanno bisogno delle famiglie, perché mio figlio, se la notte ha la febbre, non è che mi avvisa 2 giorni prima e mi dice papà, io fra 2 giorni avrò la febbre, organizzati con la babysitter e con il voucher. Cioè, capì? Il problema delle famiglie è giornaliero. Cioè, se 2 genitori lavorano e vogliono mandare, perché hanno dei problemi, devono mandare il bimbo al nido. Quindi fare meno, allora in sostanza Emanuele, meno se lei dovesse fare uno slogan, meno pannolini più nido. Ma sì, ma perché anche poi quando lo vuoi scrivere al nido, considerano anche i nonni, chi lavora e chi non lavora. Cioè, non è che io devo obbligare mia mamma per forza a stare col mio bimbo, e quindi io non riesco a portarla al nido perché fanno il conteggio di chi è solo, chi ha... Tra l'altro lei, Emanuele, vive in Emilia Romagna, dove la qualità anche dei servizi per la famiglia è ritenuta alta. Esattamente un modello per tutto il resto d'Italia, per sì, cui... ma per carità di Dio. Raccogliamo. Mi attaccavo, diciamo. No, certo. Ha fatto bene Emanuele, perché proprio stiamo chiedendo che cosa fareste con questi 80 euro e soprattutto che impressione vi ha fatto questa proposta. Antonello da Catanzaro. Si possono usare per, come dire, avere una babysitter d'emergenza, si trova qualche magari e amica poi, che può essere reperibile appunto nei casi di bisogno. E dura quando la febbre, come sottolinea Emanuele. Perché i bambini non vogliono stare con gli altri, certo giustamente. Antonello, buongiorno, ci chiama da Catanzaro, ci spostiamo. Sì, buongiorno signore. Io non so chi consiglia il presidente Renzi, se ha consiglieri o si consiglia da sé, però ha preso 2 decisioni per la famiglia, le considero sbagliate, nel senso che non penso che una famiglia che ha in mano 90.000 euro non fa figli perché non arriva a gestire il terzo figlio. Quindi questi 80 euro non vedo cosa possono servire. Allora, tra l'altro, guardi Antonello, la interrompo solo perché nella bozza del disegno di legge di stabilità di cui disponiamo, questo elemento non è specificatamente indicato, è indicato il requisito di un valore dell'ISEE per nucleo familiare non superiore a 30.000 euro annui, quindi non si indica nel testo di legge il 90.000 euro di reddito lordo complessivo. Rotta Porte. In realtà dobbiamo andare in pausa a sentire i mercati, ma un primo commento glielo consento. Certo. Allora, intanto risponderei all'ascoltatore Emanuele che appunto citava il problema della malattia del figlio. Qui ci sono già delle norme che risalgono al 2001 che consentono al padre o alla madre lavoratore, quindi in alternativa uno dei due, nei primi 3 anni di vita del bambino, di avere senza limiti di tempo, purché la malattia del figlio sia certificata dal pediatra, la possibilità di prendere dei congedi e quindi di assistere il figlio. Quindi certo, questa possibilità qui c'è già e quindi va ricordata. In merito invece al discorso dell'annuncio del nuovo bonus bebè, quindi se vogliamo è una terza versione rispetto a quella che c'era già stata qualche anno fa nel 2005, poi abbiamo sentito anche da parte del dottor Sabatini, abbiamo ricordato la misura della riforma Fornero, adesso questa sarebbe una ulteriore misura. Qui intanto stiamo parlando, come è stato giustamente detto, di un disegno di legge, per cui per avere certezze dovremo attendere il percorso di conversione della legge di stabilità. Sicuramente sarà una misura che decorrerà dal 1 gennaio del 2015 e il testo attualmente a disposizione parla di unica soluzione per ogni bambino nato o adottato, quindi è una misura che riguarda e quindi che si va a moltiplicare a seconda del numero dei figli. Le regole non sono ovviamente note oggi perché dovranno essere disciplinate da un decreto attuativo, quindi bisognerà attendere entro 60 giorni dall'approvazione della legge di stabilità per conoscere le modalità operative di questo bonus. Il valore dell'ISEE è stato ricordato, quindi ci sarà un tetto tetto massimo di 30.000 euro di valore, quindi non potrà essere concesso a famiglie che hanno un indicatore superiore, e la misura dovrebbe riguardare indipendentemente lavoratori, non lavoratori, perché la norma nella versione che abbiamo non lo dice, e dovrebbe anche riguardare i nati, cioè quindi i figli nati o adottati alla data di entrata in vigore della legge di stabilità, quindi eventualmente anche nell'anno 2014, però soltanto questa declinazione ulteriore soltanto per il terzo figlio o ulteriore figlio in ordine di nascita, quindi è una normativa abbastanza complicata per quanto riguarda l'aspettanza di questo bonus, che poi verrà evidentemente gestito dall'INPS, come è stato detto prima. Chiaro. Cuore e denari. Ogni tanto mi sorprendo, un po' ti invento. Allora, Deborah ci ha descritto l'andamento dei mercati, voi invece descriveteci l'andamento di una giornata tipo insieme al vostro bambino. Quali sono i momenti più impegnativi, quelli che vi mettono in difficoltà, in cui vi sentite un po' fragili? Quando piange a dirotto e non riuscite a calmarlo? La nanna, perché di dormire da solo non ne vuole sapere? I capricci, perché è piccolo ma è molto deciso a fare di testa sua? Chiamateci e scriveteci con noi due esperti a partire dalle 11:45, 800 24 00 24, per prenotare i vostri interventi. Bisogna che questi qua capiscano che le donne bisogna lasciare fare i figli secondo natura, cioè lasciatele andare in maternità, piuttosto inventatevi delle cose, faccio un po' Landini, le orarie flessibili, la possibilità di lavorare da casa, gli asili nido, e poi cercate di capire che le donne non sono uomini, sono delle donne. Se vi piace come lavorano, perché sono svice, intelligenti, capaci, creative, allora accettate anche questa diversità, che vuol dire che quella che possono fare figli, no? Perché non fanno mai congelare il Walter agli uomini? Questo non si capisce. Posti anticipare la maternità per fare carriera, l'ultima idea di benefit che ha fatto tanto discutere, pensata per le dipendenti di Facebook ed Apple in California, che potranno avere i propri ovociti congelati gratis. Questa è una misura offerta. Questa ci sarebbe da fare una puntata. No, una puntata e parlare una giornata, direi. Una nuova politica aziendale, chiamiamola così, che domenica ha attirato l'ironia pungente di Luciana Littizzetto. Anche noi oggi a Cuore Denari stiamo parlando dell'importanza di garantire alle mamme tranquillità e serenità nell'affrontare la scelta della gravidanza. Al momento lo facciamo parlando delle iniziative di Casa Nostra. Voi mamme e anche papà, raccontateci come avete vissuto la notizia della vostra gravidanza sul posto di lavoro e se avete richiesto e ottenuto un bonus bebè negli anni passati. 800 24 00 24 per le vostre testimonianze. Abbiamo avuto diverse versioni, 1000 euro tra il 2005 e il 2006, di cui poi è stata pure chiesta la restituzione, Nicoletta, tante puntate all'epoca di Salva Danaio anche su questo. Abbiamo avuto le iniziative della Fornero, ci sono tante iniziative sul territorio, perché anche i comuni che hanno qualche soldino si attrezzano. Qualche sostegno alle neomamme lo garantiscono, quindi rotta porta, il tema è proprio questo, un ginepraio, una grande confusione, tanti strumenti di sostegno al reddito che se fossero un po' più razionali non ci dispiacerebbe. Possiamo lanciare questo messaggio al Premier? Noi oggi così abbiamo la presunzione di dire che ci ascolta, vero Nicoletta? Sì, in effetti lo pensiamo, anzi ce lo auguriamo, lo invitiamo, Alessandro, che noi avremo tanti suggerimenti. No, su questo direi, ci sono gli assegni familiari che i genitori ricevono in busta paga, quelli che lavorano naturalmente. Rafforzare già quello strumento non sarebbe sufficiente invece di andare con questa nuova iniziativa con l'autocertificazione e il click day da gennaio? Ma il discorso è che è un discorso che purtroppo accomuna molti capitoli della legislazione, non solo quella sul lavoro. Manca purtroppo una visione organica, manca una visione prospettica e quindi nuovo governo, nuova misura. Questa è un po' la storia, il film che abbiamo vissuto negli ultimi anni. Quindi non c'è un coordinamento tra queste misure che molte volte, come è stato giustamente detto, sono assoggettate a svariate condizioni, poi ci sono i casi delle restituzioni che peraltro ricordiamo possono anche interessare anche la misura della Fornero nel momento in cui il rapporto di lavoro cessi durante la fruizione di questi voucher, quindi cioè, ci sono tante sfaccettature che rendono le misure o non appetibili oppure che causano addirittura, anziché dei vantaggi, degli svantaggi. Quindi certo, ci si dovrebbe fermare un attimo e avere una visione nella sua complessità, perché altrimenti poi si perde proprio lo spirito che dovrebbe essere nobile di queste misure, si trasforma poi in una corsa ostacoli che il cittadino poi molte volte neanche comprende, perché poi l'annuncio rispetto al testo normativo, insomma, di distanza ce n'è molta. Senta, da quello che abbiamo raccontato prima, il nuovo bonus, chiamiamolo così, dovrebbe essere riconosciuto ai nuclei familiari con ISEE, l'indicatore della situazione economica, che non ne dovrebbe superare i 30.000 euro. Adesso così a spanne, anche se so che questo indicatore si calcola secondo vari parametri, appunto, a quale potrebbe essere il reddito medio lordo percepito dalla famiglia che ha un ISEE di questo importo? Mamma mia, le faccio fare una rocambolesca operazione di calcolo. Ma possiamo parlare, ovviamente, appunto, come ha detto anche lei, l'ISEE tiene conto anche di una quota pari al 20% del patrimonio immobiliare. Sì, quindi certo. Comunque sono redditi medio-bassi, non so, intorno al migliaio nulla di euro. Nulla a che fare con i 90.000 euro di reddito lordo che fa tanto discutere, insomma. No, infatti almeno nel testo, poi anche qui c'è un po' il solito balletto di testi, quindi vedremo poi quello che sarà il testo ufficiale pubblicato, ma l'indicatore dei 90.000 nella versione, l'ultima versione, voglio dire, non ma dove è spuntato fuori allora questo valore? Perché poi spuntano fuori dei valori e poi ti accorgi che non sono quelli. I giornalisti hanno le loro fonti nei palazzi, probabilmente era una cifra che circolava, dopodiché già qualche vespaio lo crea nelle prime indiscrezioni che circolano e quindi si fa marcia indietro, non si mette su nessun testo. concludiamo solo con un commento di un'ascoltatrice, con Giovanna da Roma, che ne dice, Nicoletta, e poi salutiamo molto volentieri Alessandro Rottaporta, con il quale confezioneremo tante puntate a partire da gennaio, quando saremo pronti. Giovanna, benvenuta. Pronto? Sì. Mi sentite? Buongiorno, certo. Nicoletta, buongiorno Deborah. Buongiorno. Queste due monelle adorabili che adoro, monelle, però quella Deborah sta diventando talmente brava perché con cotanta maestra sta superando quasi il maestro, insomma, complimenti. Hai e capito? Un bacio a tutte e due. Ma hai fatto, eri la mia maestrina, Nicoletta. Sì, forse perché un pochino poco più grande, credo. Sì, sì. Credo, ecco. Niente, sono una nonna e quindi innanzitutto, vabbè, volevo solamente dare degli spunti. Finalmente dopo tante rivoluzioni industriali, economica, quell'altra, insomma, cerchiamo di arrivare alla rivoluzione di mettere al centro del mondo il bambino. Quindi che dove ancora le politiche scarrellano leggermente, complimenti anche all'ospite che ci avete dentro, chiaramente ci vuole una programmazione, un lungo occhio, perché quando studiavo io a 23 anni mi sono lavorata in economia e commercio, si diceva solo la programmazione ad oggi, ma breve termine, lungo termine, eccetera, eccetera. Il bambino al centro di tutto, anche addirittura prima della famiglia, perché dopo ecco ricaschiamo in queste logiche del reddito complessivo della madre, il padre, più due nonni, quella. Io sono una nonna molto part time, perché pure è giusto che i nonni non debbano essere gli ammortizzatori sociali, economici e anche morali di tutta questa situazione, in modo da tirar fuori proprio la genitorialità. Quindi il bambino, ai tempi miei si usava anche il preasilo, il postasilo, con un prezzo piccolo, politico, dove la mamma corre, magari deve andare in ufficio alle 7, però la scuola apre alle 7:30, non ci può stare, si va lì con personale super qualificato che magari sta ancora in graduatoria, che sta lì, che lo trattiene in gioco, quello che è il postasilo, anche gli asili costruiti non solo dove sta in luoghi pubblici, anche al resto. Grazie. Giovanna, quando io dico che se Renzi venisse a cuore denari, noi potremmo dire la nostra. Invitiamo pure Giovanna. Io porterei pure avanti le stanze delle zie, guarda un po', quante idee. Cuore e denari. Non mi piacciono i piccoletti. Non ti far ingannare. Non sono così come sembrano. Mangiano, pisciano e cagano. Ma soprattutto cagano. Perché dovrebbero piacermi? E poi piangono sempre. La casa è diventata un inferno. Inferno? Piantarello ogni tanto? Tutte le notti. Di solito un attimo dopo che ti sei addormentato. Perché loro sanno quando ti addormenti. A descriverli così verrebbe quasi da starci alla larga, e invece con loro è amore a prima vista. Parliamo di bambini, oggi ci concentriamo su una fascia di età molto delicata, quella che va dagli 0 ai 3 anni, e non lo facciamo a caso perché abbiamo parlato proprio sinora di loro, degli 80 euro che andranno alle neomamme sino ai 3 anni di età dei loro bambini. Ci concentriamo su quest'età, che è un'età molto delicata, dagli 0 ai 3 anni, non che le altre età siano meno importanti, ma sicuramente i primi anni sono quelli in cui, specie con il primo figlio, ci si deve rodare un po', bisogna un po' prendere le misure e anche avere anche il tempo di conoscere il bambino. Io mi ricordo quando mi sono trovata alle prese con la prima febbre, il primo dentino, i primi passi o il momento di togliere il ciuccio, allora nonni, zii, amici erano e venivano loro malgrado coinvolti in veste di consulenti, però a ripensarci è stato un gran bel periodo. 800 24 00 24, per voi com'è questo periodo, come ve la state cavando, come descrivereste i primi mesi o i primi anni di vita insieme, a chi chiedete aiuto e consiglio, al nonno, al pediatra, alla rete? In linea con noi abbiamo due esperti, abbiamo il piacere di avere la dottoressa Manuela Trinci, psicologa e psicoterapeuta dell'infanzia che noi conosciamo bene. Buongiorno dottoressa Trinci. Buongiorno Nicoletta, buongiorno Deborah e a tutti gli ascoltatori. E insieme abbiamo una new entry, Deborah. Ottimo. Abbiamo il dottor Paolo Sarti, un pediatra che ha scritto insieme alla dottoressa Trinci un libro a quattro mani che si intitola La giusta fatica di crescere, edito da Feltrinelli. Buongiorno anche a lei, dottor Sarti. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, dottoressa Trinci, di che fatica parlate e di chi è la fatica? Dei genitori o dei bambini, dottoressa? Salve, si parla appunto della fatica necessaria a crescere, quindi una fatica dei bambini e una fatica dei genitori, perché è evidente che ogni genitore, come logico che sia, desideri allevare un bambino felice, e di sicuro la felicità possiamo dire che è un diritto imprescindibile di ogni infanzia, ma per crescere esistono altri diritti dei bambini, per esempio il diritto al dolore, il diritto appunto a fare fatica, a a confrontarsi con le normali difficoltà, con i normali inciampi della crescita. Allora, qual è il motivo per cui spesso si eludono questo da parte dei genitori? Forse per stare in pace con noi stessi? Questa è la domanda? Vuole fare questa domanda ai nostri ascoltatori? Voglio fare questa domanda agli ascoltatori. Ma guarda, voglio ribaltare la frittata. 800 24 00 24, se accettate questa sfida della dottoressa Trinci. E a proposito di fatiche di mamme, di papà, di bambini, di fatiche che aiutano a diventare grandi, che ne pensa degli 80 euro che Renzi promette di dare alle neomamme? Ma guardi, io credo che sia sicuramente una cosa popolare, una cosa che farà piacere, che farà parlare. Io mi sono chiesta sinceramente nel momento in cui è venuta fuori questa notizia se non sia più opportuno e più giusto che non dare 80 euro ad ogni mamma, mettere, non sono un economista quindi dico queste cose solo con il buon senso, investire queste somme di denaro nei nidi, nei servizi educativi all'infanzia, nelle aree, cioè laddove ci sia una collettività, perché se è vero che c'è, come d'altra parte nel nostro libro cerchiamo davvero di dimostrare, una giungla di oggetti, un imbarbarimento anche del pensiero critico verso il consumo, beh, allora forse se questi 80 euro servono per comprare un baby monitor o per comprare il termometro che luccica o per comprare le scarpe senza lacci, forse ecco, bisogna un po' interrogarsi. Certo, dipende da fascia a fascia, però io credo che un investimento nel sociale, un investimento nei servizi che riguardano l'infanzia forse aiuterebbe di più. Dottor Sarti, lei che le mamme le incontra ogni giorno, secondo lei? Sì, penso anch'io questo. Io credo che oggi sono così disorientati i genitori nell'acquisto proprio delle cose che fondamentalmente bisogna gestirglieli questi soldi. Questo può sembrare un po' paternalistico, però di fatto ci dà ragione il consumo. Vediamo che si spendono cifre incredibili anche per andare a un concerto di una ragazzina per i bambini, quindi allora forse un servizio che li aiuti a gestire il figlio, che gli consenta anche di seguitare ad avere una vita sociale, a lavorare, e questo forse è un po' il problema di oggi, cioè che i figli assorbono troppo, li abbiamo troppo problematizzati, e quindi adesso il genitore viene schiavizzato da questi figli, non ha più uno spazio libero, uno spazio adulto. Allora investire soldi appunto in qualche cosa che lo liberi un po' dal figlio, il genitore è ben accudito, come un asilo per esempio, credo sarebbe stato meglio, non lo so, questo lo lascio agli ascoltatori. Lo lasciamo agli ascoltatori perché vogliamo anche confrontarci su questo, no? E soprattutto certo, anche sulle fatiche che ciascuno di noi incontra nella gestione, nell'educazione dei figli. Ci occupiamo naturalmente in questa puntata dei bambini che vanno dagli 0 ai 3 anni. Abbiamo Sara che ci chiama da Vicenza all'800 24 00 24. Invitiamo le mamme, i papà, nonni, ma anche le zie, Deborah. Ah, altro che anche noi ne abbiamo. Certo. Sara, buongiorno. Salve. Buongiorno a tutti e grazie della trasmissione. Allora, io ho due bambini, uno di 22 mesi e uno di 8, e ho ricominciato a lavorare da un mese e mezzo e mi ritengo un'eroina. Il problema è la fatica, ce l'ho soprattutto con quello di 22 mesi, perché è un bambino molto vivace e molto attivo e solo con me si permette delle confidenze, banalmente che ne so, mi dà la sberla oppure fa dei capricci, delle scene impossibili, e solo con me, perché con la signora che me li tiene a casa anche in questo momento, con la babysitter, invece è un bambino bravissimo e magnifico, un santo. E con me, ripeto, mi pianta delle scene, delle pezze, come si dice, ecco. Cuore e denari. Mamma, ho tanta sete, mamma. Ok, buonanotte. Aspetta, c'è un'altra goccetta. Mezzo goccetto, non ne hai bisogno. Sì che ne ho bisogno. Buonanotte per davvero, eh? Notte, mamma. Notte. Sono tanto emozionata per la gita di domani. Mamma. Devi fare la nanna ora. E noi siamo tornati insieme oggi alle prese con pannolini, ciucci, pianti, pappe, ma anche baby monitor, termometri infrarossi, scarpe senza lacci e chi più ne ha più ne metta. Siamo in ottima compagnia, abbiamo in linea con noi la dottoressa Trinci e il dottor Paolo Sardi, che insieme hanno scritto un libro molto interessante, a cui insieme a Deborah abbiamo messo il bollino blu di Cuore Denari. Si intitola La giusta fatica di crescere, va bene per le mamme, i papà, ma anche per le zie, vero Deborah? E lo leggerò molto volentieri. Edito da Feltrinelli. Ci siamo lasciati sui capricci, il capricci di un bambino buonissimo con la tata e gli altri, e con la mamma diventa un diavolo. Dottoressa Trinci e dottor Sardi, vogliamo raccogliere oggi un po' le testimonianze, i racconti, i dubbi, le paure dei genitori all'ascolto, ma anche le soluzioni. Dottoressa Trinci, capricci, qual è il bambino che non fa il capriccio, no? Certo. Fanno anche il loro mestiere. No? Certo. Ecco. Infatti, guardi, rispetto alla telefonata di Sara con il bimbo di 22 mesi e quello di 8 mesi che ha ripreso il lavoro appunto lei stessa da un mese, mi veniva in mente una frase che utilizzava spesso Roberto Denti: il bambino è impegnato a crescere, no? E quindi a sperimentare anche quelli che sono gli inciampi normali. In questo caso probabilmente era un bambino con la strada spianata, quando più o meno all'età di un anno è nato il fratellino e quindi si è trovato di fronte alla necessità di imparare in qualche maniera anche la fatica di costruire nuovi rapporti, di costruire appunto i vantaggi e gli svantaggi di avere una frate. Allora, anche in questo senso riprenderei quello che diceva Paolo Sardi prima: se la coppia dei genitori è più forte, no, se i due genitori sono più presenti entrambi sulla scena familiare, i bambini sono anche, quindi, più dediti l'uno all'altro, con spazi lasciati più, diciamo, in solitudine per i bambini, si sviluppa maggiormente anche la fratria. Se babbo e la mamma vanno a cena fuori la sera prendendosi uno spazio per sé, è evidente che i due bambini fanno anche più amicizia. No, non è vero che i bambini sono così fragili e così delicati come tanta manualistica ci presenta. I bambini sono abituati e quindi sono attrezzati per crescere. Vivere nella bambagia è veramente fastidioso e noioso anche per i bambini. Ma la letteratura, dottoressa Trinci, ma per dare un consiglio alle mamme che stanno scrivendo, numerose, anche papà, al 349-238-6666, di fronte ai capricci di un bambino, così anche Carmela Lauricella, che è alle prese ne con due belle bambine, belle ragazzine, piccolette, che cosa si deve fare? Cioè, qual è la mossa giusta, la frase, l'atteggiamento, concretamente, quale aiuto possiamo dare? Ma dunque, questa è una domanda veramente da mille punti, ma per questo la faccio a lei. Certo, guardi, io credo che esista capriccio e capriccio, non si debba generalizzare, non voglio nemmeno banalizzare da parte mia, però sicuramente un atteggiamento fermo dei genitori. Questi bambini stanno diventando dei tiranni. Guardi, che quello che diceva la nonna, che diceva di un bambino al centro del mondo, io per esempio non lo condivido tanto. Ecco, rimettiamolo al suo posto. Forse intendeva un po' come politiche sociali, magari, non tanto come questione educativa, no, ritengo. Ma questo è vero, no? C'ha ragione la politica, però è anche vero che questo determina un bambino centrismo oggigiorno, per cui se lei entra in una qualsiasi casa, non, anche di 70 metri quadri, non si cammina dai giocattoli che ci sono. Ma tutto questo serve a un bambino per crescere o non fa sì che ci sia quella che gli americani hanno coniato, la sindrome della noia? Cioè, se a 3 mesi, a 4 mesi, non appena il bambino apre bocca, il genitore entra in crisi perché il bambino piange, oppure ha difficoltà a decodificare il pianto, ma guardi che nella giungla degli oggetti che ci circondano abbiamo sia a Londra la clinica di decodifica del pianto del bambino, sì, abbiamo avuto anche della foppa per i dretti, perché piangi. Cioè, ma noi dobbiamo veramente restituire ai genitori anche la dignità. Quella che ha ritrovato Silvano, che ci scrive un tweet, lui è il papà di Viola, è nata a novembre nel 2013, qualche spavento e stress per prime pappe, un mese di inspiegabile pianto serale, ma alla fine viva l'istinto del papà. Dottor Sardi, si riconosce, questo è un consiglio che lei dà anche ai genitori, di... insomma, recuperare un po' il buonsenso e sentirsi fiduciosi nell'affrontare questo cammino insieme ai bambini. Certo, guardi, per recuperare un po', diciamo, il buon senso, anche se il buon senso è un termine un po' vago, bisogna liberare i genitori da questa paura che ogni loro azione contraria al bambino possa generare un trauma. Oggi c'è questa cultura del trauma, no? Tutto è trauma. Allora già cominciano da piccolissimi, dal neonato, gli dicono non deve piangere più di 30 secondi, se no gli viene il trauma, cioè... Allora, bisogna liberare un po' tutto questo e ridare la dignità al genitore del suo ruolo, cioè quello di far sperimentare al bambino le autonomie, di far sperimentare quindi il momento della solitudine, il momento del saper fare da sé, ovviamente con occhio accorto, vigile per proteggerlo, ma senza intervenire, senza sostituirsi. Allora, questa, diciamo... tecnicizzazione di tutto ciò che è normale oggi ha reso così complessa la vita del genitore che sono paralizzati, anche solo per toccarla deve fare il corso di massaggio, cioè non si fa più il bagnetto con tutta la gioia della, anche della paura che affoghi, si fa l'acquaticità, cioè insomma è tutto terapia oggi, no? È vero, il vostro libro del libro terapia non le mandate a dire nel vostro libro, dottor Sarti, no. Io conosco da anni la dottoressa Trinci, che da brava toscana è molto diretta, molto e nel diretta. Vostro libro, devo dire, fate un appunto, lo metto tra virgolette, a molte coppie, mandando un messaggio chiaro: per diventare grandi bisogna fare un po' di fatica, invece tutti noi cerchiamo di spianare la strada ai nostri figli, di facilitarli, li circondiamo di questo corredo di oggetti di cui voi parlate con dovizia di, no, particolari nel vostro libro, per proteggerli, per accudirli, insomma facciamo un po' come mamma topo che mette il topolino nella bambagia. Vogliamo parlare di questo anche naturalmente con i nostri amici da casa, 800 24 00 24, cercando di sfatare alcuni dei luoghi comuni a cui accennava il dottor Sarti. C'era un pediatra che scriveva che i bambini crescono nonostante le mamme, nonostante pediatra, degli psicologi non faceva riferimento, ma siete d'accordo? Sicuramente, no, certamente il pediatra ha un suo ruolo e ha una sua necessità, e ben venga un paese che ha una pediatria che segue bene i bambini, questo non ci dobbiamo rinunciare, no, il problema è quando poi il pediatra come figura istituzionale va a complicare inutilmente la vita entrando in campi che non le riguardano. Io il consiglio che do a tutti i genitori è: attenzione, quando arriva il figlio proteggete il vostro spazio adulto, proteggetelo da tutti, anche dai consigli pediatrici in qualche modo. Lo spazio adulto vuol dire la stanza loro, le loro serate, le loro uscite, non si può farsi paralizzare, farsi rubare tutto dal bambino, perché poi il bambino guardando i genitori dice: ma che adulti sono, ma che vita è, io voglio rimanere bambino tutta la vita. E difatti ci troviamo poi ragazzi, come si dice ragazzi fra virgolette, di 30 anni, 35 anni, che sono ancora dei adolescenti, dei bambini, che non crescono, non merita crescere, quindi bisogna fargli capire che merita crescere. 800 24 00 24, che cosa pensate, pensino di voi i vostri bambini? Raccontatecelo. Lorenzo, che ci chiama da Piacenza, poi abbiamo Cristina dalla provincia di Lecco, ma non volevo far attendere ulteriormente Lorenzo, che è un po' di tempo che è in linea con noi. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno a tutti e complimenti per la trasmissione. Eccoci qua. Sì, partendo dal presupposto allora a questo punto che mi sembra che quello che ha detto la dottoressa Trinci e il dottor Sarti sono già stato a questo punto indottrinato da chi mi ha fatto crescere il bambino, cioè i medici della Mangiagalli. Sì. E cosa volevo dire in questo senso? Cioè proteggere il nostro spazio di adulti è una cosa che mia moglie a questo punto facciamo da 2 anni a questa parte, perché Matteo ha appena fatto i 2 anni. Quindi siete stati bravi subito dall'inizio. Mi hanno sempre detto una cosa: l'istinto di sopravvivenza, non farti mangiare il tuo spazio dal bambino. Chiaramente chi me l'ha detto era in confidenza, è un amico, per cui io l'ho preso a parola 2 anni fa, e devo dire che quello che, come ti ripeto, l'ha detto la dottoressa, il dottor Sarti, è un consiglio che posso girare a tutti i genitori, che è vero, forse sono più paturni di noi genitori che... nell'andare contro le esigenze del bambino che altro. Però detto questo, io però mi accorgo a questo punto di una cosa, che il bambino vedendo più me, perché sono libero professionista, sì, e meno mia moglie che è una dipendente, alla sera quando arriva quando mia moglie arriva a casa dal lavoro e deve mettermelo a letto, attenzione che la dottoressa Trinci l'avrà notato, ma la frego poco in tempo, mettermelo quindi a letto. Sì, che me lo deve mettere a letto, nel senso che perché io faccio altri lavori di sì. casa, e quindi lei si occupa del bambino, perché vedendolo poco durante la giornata lei se lo prende, se lo e come va? E fa qualche capriccio. E mentre con lei no, Lorenzo. E con me ni. Ni. Bravo, quindi, è stato onesto. Allora, e anche quando a questo punto vogliamo cambiare il pannolino, sa, una roba strana, ma la sera mia moglie, come le ripeto, ci parla, ci sta assieme, così lo vuole mandare a letto, gli vuole cambiare il pannolino, il bambino non vuole fare dei capricci da cinema. Dottoressa, però io volevo fare una promessa veloce: è un bambino estremamente a cui bisogna fare veramente un monumento, perché a questo punto un bambino, faccio una promessa veloce, che mi mangia da solo già adesso, mangia insieme a me e mia moglie tutti e tre a tavola, e addirittura anche quando andiamo al ristorante. Quindi un bambino molto, vedi? Molto bravo. Un po' come i nipoti di Deborah, che sono bravissimi, vero? È vero. Sì. Allora, dottoressa Trinci, dottor Sarti, dottoressa Trinci. Tutto dalla zia, naturalmente. E anche dall'amica della zia, dai, ecco, per questo brillano. Ma allarghiamoci un attimo. Allora, probabilmente anche questo bambino è un bambino impegnato a crescere, ha 2 anni, no? Quindi, voglio dire, è evidente che c'è una fame, no, di mamma, c'è una fame di babbo, c'è una fame di stare insieme, quindi è chiaro che il bambino, magari la mamma torna la sera e c'ha un atteggiamento un pochino più di punitivo, diciamo. Io ricordo sempre una collega con una bimba che aveva appena messo al nido, questa bambina spandeva sorrisi di un anno e mezzo, una bimba di un anno e mezzo, spandeva sorrisi a tutti, arrivava la mamma e teneva ostinatamente la faccia rivolta verso il basso, quindi consentendo anche... Che dolore, che dolore! Terribile, terribile. Consentendo però anche a noi adulti una decodifica, no, dei sentimenti dei bambini. In fondo la funzione adulta credo che sia anche questa, cioè capire, comprendere, metabolizzare i sentimenti dei bambini, rimandandogli con una maniera anche giocosa attraverso le storie. Si possono raccontare storie, per esempio, a un bambino di 2 anni e mezzo, della mamma che va al lavoro, del babbo che sta a casa, del bambino che si arrabbia tantissimo su questo. Quindi sicuramente uno spazio terzo, lo spazio del gioco, lo spazio della lettura, è uno spazio che davvero aiuta i bambini a crescere e a sollecitare la loro fantasia, perché questo è un altro punto nodale del libro. Io credo che con Paolo abbiamo discusso tantissimo senza piangersi addosso, perché davvero c'è un'editoria fiorentissima che descrive bambini viziati, bambini tiranni, genitori disperati, eccetera. Noi abbiamo cercato di cogliere all'interno di questo un rischio vero dei bambini di oggi, che è quello di un impoverimento del loro immaginario, perché se io a 1 anno e mezzo do a un bambino un giocattolo prefabbricato della serie un campanellino che suona sempre nello stesso modo, oppure gli do già i colori da buttare nell'acquetta per il bagno, o i tappetini multisensoriali, chi più ne ha più ne metta, è ovvio che non riesco a sollecitare il bambino. Quindi queste fatiche di cui noi parliamo sono delle salvaguardie anche dell'immaginario. Quindi attingiamo a delle attività spontanee dei bambini, a delle attività anche di noia. I bambini, scriveva Sandro Penna, grande poeta, giocano con tutto, anche con la noia. Io penso che questo sia prezioso, con la noia, e coltiviamo questo immaginario dei bambini attraverso dei libri belli che sollecitano noi adulti e loro bambini. Io penso che questo sia anche un po' il messaggio forte e anche nuovo del libro che abbiamo scritto. Sì, devo dire che parlate e passate in rassegna tutti quegli oggetti, il corredo del pupo, che è composto da oggetti più o meno tecnologici che spesso vengono regalati da amici e parenti, quindi ciuccio su misura, scarpe senza lacci, termometro infrarossi, il baby monitor. Voi li definite falsi alleati, ecco. A iniziare dall'insospettabile body. E qua io non ho capito perché. Tu sai, i tuoi nipoti usano il body, sì, comodissima. Ma i neonati, diciamo, non adesso i due più grandi, ma piccolina, sì. Neonati, ecco. Allora, io vorrei capire, dottor Sarti, perché mi ha smontato il body, che io ho regalato tutte le amiche. Anche il pancino, ecco. No? Tutto un po' di pieno, un po'. Infatti, e poi guardi che nei negozi non si trovano magliette per neonati. Ecco, appunto. Sa quanti regali ha fatto la zia di body tanto carini? Anch'io. Vado a cercare i più originali. Io l'ho letto e ho detto, no, non è possibile. Ho ripreso la pagina, ho detto, come il body? No. Gli ho regalato a tutte le amiche dicendo: guarda, è che se lo prendi non torni più indietro. Io a Michele gliene ho anche regalato uno con un microfono tipo televisivo, figurati già che cosa immaginavo. Questa, per il mio piccolo, no? Quindi dottoressa Trinci, venga a prenderla, perché a parte che devo andare io dallo psicologo, però insomma, perché mi smontate il proposito? Sì, proprio il body secondo me è una patologia psichiatrica delle ma madri. Perché anche Carmelo però perché? No, allora, non esiste nessun testo medico che possa dare colpa alla pancina scoperta di una malattia, cioè insomma il pancino scoperto non genera malattia, vabbè? Allora, se genera casomai un po' di però fastidio, regge il pannolino, dottore, non mi caschi. No, qua il pannolino si regge con lo scotch, ormai sono tecnologici, quelli di una volta ci voleva la mutandina per reggere, adesso non più. No, il problema è che l'idea che si scopre il pancino terrorizza. Allora, cosa succede se si scopre il pancino? Il bambino può avere anche un disagio, perché magari gli dà fastidio perché boh, sempre più fresco altro, allora piange e bisogna andare lì e tirarglielo giù, perché ovviamente da solo ancora non lo sa fare, però via via ci prova e più sa andarci e più lo impara. Dopodiché non avrà bisogno a 18 anni di telefonare alla mamma per dire c'è un pancino scoperto, che devo fare, cioè sarà diventato abile. Di contro, appunto, invece il body crea dei problemi medici. Perché, no, veramente. Allora, crea un ambiente dove manca ossigeno, c'è troppo caldo e c'è umido. È il classico ambiente in cui crescono i funghi porcini, lei sa quando nel bosco, no, c'è stata la pioggia, c'è il fogliame, ecco, il fogliame leva l'ossigeno, arriva il sole e vengono fuori i funghi. Bene, allora lì c'è la pipì, la fa il bambino, quindi l'umido ci pensa lui. Sì. L'ossigeno lo leva il pannolino, perché il pannolino ha una porta solo anteriore. Ma quando lei respira con la pancia, pompa l'aria, la tira fuori, però dalle altre parti non passa niente. Quindi, dottor Sarti, noi allora ci ha smontato il body. Sì. Devo dare aria ai miei nipoti. Ecco, bisogna, insomma, aria bisogna. Allora bisogna aria, che quelle aree, quelle zone lì siano ossigenate. Ossigenate. Quindi chiudiamo qui, ma ricordiamo il titolo del libro, La giusta fatica di crescere, edito da Feltrinelli, scritto da Manuela Trinci e Paolo Sarti, che invitiamo a venirci a trovare una prossima assolutamente volta per rispondere a tutte le domande che sono arrivate numerose, ma intanto scriveteci e noi faremo lavorare i nostri esperti. Grazie alla dottoressa Trinci e al dottor Sarti. Buona giornata, a domani. Cuore e denari.